Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata in rosa, sì, perché oggi parleremo di rosa tutta la trasmissione. Perché rosa? Perché parleremo soprattutto di rosé o rosato, ovvero sia i vini che l'anno scorso hanno così oscurato i vini rossi e i vini bianchi durante tutta la stagione nei ristoranti, nei bar e un po' ovunque. Bene, vorremmo vedere se anche quest'anno il rosa sarà un vino vincente oppure se comincerà a declinare e quali potrebbero essere le sorprese dell'estate di quest'anno. Vino bianco, un ritorno al vino bianco, le bolle, oppure perché no anche un rosso freddo nel senso non ghiacciato ovviamente, neppure i vini molto tannici ghiacciati, però c'è questa tendenza già da un paio d'anni che sicuramente sta emergendo. E allora cominciamo questo tour, faremo un tour dell'Italia per capire appunto cosa sta succedendo, anzi soprattutto cosa succederà. E allora andiamo subito in Franciacorta. In Franciacorta perché molte bollicine sono diventate rosa e hanno avuto un grandissimo successo partendo ovviamente dalla Francia. Ma vediamo, sarà ancora successo oppure i rosé saranno stazionari oppure saranno in diminuzione? E allora lo chiediamo al presidente del consorzio di Franciacorta, Maurizio Zanella. Buongiorno Zanella. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Allora, quali tendenze vedi all'orizzonte per le bolle rosa? Dopo un anno, come tu hai detto giustamente, di grandissimo incremento, tieni conto che Franciacorta ha passato nel 2009 sul 2008 il 25% di incremento sulla tipologia del rosé. Io credo che ci sarà una stabilizzazione dei consumi perché normalmente era un fatto ciclico. Io credo che c'è stata un'impennata inferiore rispetto al passato, ma si stabilizzi di più rispetto al passato. Prima era veramente negli anni 70, c'era stato un boom, ricordo il Matteus e altri produttori importanti italiani di bollicine che avevano spopolato, però era una cosa che era durata 2 o 3 anni e poi si era quasi azzerata. Io penso che questa volta sia un consumo più cosciente e penso che questo boom si arresterà e si assesterà senza perdere quelle quote che ha guadagnato. Ecco, ma sentiamo invece Angelo Peretti, che oltre a essere responsabile della promozione del consorzio tutela vino Bardolino è anche un grande osservatore e giornalista. Perché? Perché sentiamo Angelo Peretti? Perché il Bardolino, il Chiaretto e soprattutto appunto questo Pink Rosé, come viene chiamato in questi momenti anche con una grande manifestazione che avverrà nei prossimi giorni, è in grande crescita e quindi diciamo che contrariamente alle aspettative il loro vino sta crescendo veramente vertiginosamente. Buongiorno Peretti. Buongiorno, buongiorno Davide, buongiorno agli ascoltatori. Ma sì, la crescita c'è, continua a esserci. Ho visto proprio ieri i dati relativi ad aprile. Aprile del 2009 fu il mese del grande boom del Chiaretto sul Lago di Garda. Aprile 2010 segna un ulteriore più 5% sui dati record dello scorso anno. La crescita continua assolutamente, ma c'è un dato molto significativo, mi rifaccio a quello che dicevi poc'anzi, sta crescendo anche il rosso gardesano, il Bardolino in particolare, che è, come dicevi tu, un rosso che si presta ad essere bevuto freddo d'estate, più 22% ad aprile rispetto all'anno scorso nelle vendite. Ecco, ma cosa state combinando? Ho letto di una notte in rosa, cosa ma significa? Sì, stiamo creando quello che ambiziosamente abbiamo definito un Chiaretto lifestyle, uno stile di vita legato a questo vino da spiaggia, come lo chiamiamo noi, o vino da piscina. Sì, faremo un test su una notte rosa a Torri del Benaco a fine luglio, per poi farla diventare una iniziativa strutturata su tutto il lago di Garda nel 2011. Non solo, il 5-6 giugno avremo a Moniga del Garda sulla sponda bresciana del lago e alla Zise sulla sponda veronese Italian Rosa, che è un evento dedicato ai vini rosati. Quest'anno abbiamo più di 300 vini in degustazione portati da 240 aziende italiane. Per noi il boom del rosato continua assolutamente, il lago di Garda sta diventando un lago interamente rosa. Zanella, volevo chiederti, ma le bolle, diciamo quelle appunto di Franciacorta e non quelle rosé, come le vedi per quest'estate? C'è previsione di crescita anche estiva? Io credo di sì, cioè è un comparto in costante crescita, non credo più con le percentuali a due numeri dell'anno passato, ma io penso ci sia molta attenzione per questa tipologia. Bene, grazie a Maurizio Zanella. Ora andiamo al sud, andiamo nel Salento, andiamo nell'azienda che ha creato il rosé in Italia. Veramente è stata la prima storicamente, penso, ma penso di essere vicino al vero. Andiamo nell'azienda Leone De Castris. Abbiamo con noi Pier Nicola, Leone De Castris. Buongiorno De Castris. Buongiorno, buongiorno. Ecco, voi che da quanti anni producete il rosé? Beh, come lei accennava, appunto la nostra è l'azienda che diciamo ha creato il rosé in bottiglia, quantomeno in Italia, perché lo produciamo dal 1943, ed è il Ferrerosis, che credo sia il rosato italiano più conosciuto. Ecco, ma mi racconti un po', in questi anni, diciamo siete partiti 43 anni fa, ci sono stati altri... No, 43, altri... nel 43, sono 66 anni 66 fa. Anni. Bene, in questi 66 anni ci sono stati alti e bassi o ha avuto invece un andamento continuo? Ma guardi, la nostra è un'azienda che ha sempre creduto molto in questa tipologia, quindi diciamo per noi è sempre stato un segmento importante quello del rosato. C'è da dire che però ci sono stati degli anni nei quali il rosato non è stato, diciamo in generale mi riferisco, apprezzato così come mi sembra di poter dire negli ultimi periodi. Insomma, c'è certamente una maggiore attenzione, credo ci sia molta strada ancora da percorrere, però sicuramente un'attenzione maggiore da parte sia del consumatore, dei media, diciamo, anche degli addetti al settore esista. Senta, io le faccio una domanda un po' pericolosa, le chiedo questo, ma cosa pensa che negli ultimi anni moltissimi produttori hanno messo sul mercato dei rosé, mentre prima ce n'erano pochissimi ovviamente, quando voi avete cominciato, cos'è successo? Ma che ci sia più attenzione nei confronti del rosato a noi non può che far piacere, però io credo che non tutte le aziende che producono rosato di qualità, cioè voglio dire che alcuni lo hanno fatto più che altro per completare una gamma, ma non insistendo molto su questa tipologia che a nostro avviso anche poi come pugliese rappresenta una caratterizzazione importante diciamo del territorio. E se posso farle un'anticipazione, le dico che noi il 16 giugno presenteremo il primo metodo classico rosato DOC della Puglia. Bene. Producevamo già da alcuni anni dei rosati spumanti, ma metodo Charmat, questo è un metodo classico. Bene, grazie a Pier Nicola Leone De Castris e Angelo Peretti. Ora passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Sarà ancora un'estate in rosa? Ebbene, colgo l'occasione per salutare tutte le signore e signorine che sono in ascolto, visto che parliamo di rosa. Bene, abbiamo già sentito che le previsioni sono stazionarie sui vini rosati. Sicuramente dopo il boom degli anni passati probabilmente c'è un rallentamento, anche perché io vorrei anche aggiungere una mia considerazione. Gli ultimi anni è stato un vino di moda, soprattutto, e quindi si sa come le mode possono durare poco, e quindi sicuramente magari nei prossimi anni il vino rosé andrà molto meno. Un peccato, perché tantissimi produttori si sono messi a produrre questo vino vedendo che era un vino di grande successo. Ma ora continuiamo questa nostra panoramica e ora andiamo nella grande distribuzione, dove si vende molto ma molto vino, quindi chiediamo quali sono le previsioni, cosa si pensa. Andiamo all'Esselunga, andiamo da Daniele Colombo. Buongiorno Colombo. Buongiorno Davide Paolini. Senta, volevo chiedere quali sono le vostre previsioni per i vini rosati o rosé, anche le bolle rosate o rosé? Ma diciamo che, come giustamente anticipava lei, il mondo del rosato oggi sta rivivendo un momento di euforia. Euforia dettata soprattutto dai vini rosati con le bollicine, come si suol dire, sia a metodo classico che Charmat, che stanno un po' riscoprendo una seconda giovinezza, un prodotto che nasce dalle aziende come completamento di gamma per dare una più vasta gamma di prodotti, oggi sta un po' prendendo una strada a sé che porta come protagonista questo prodotto, soprattutto nei mesi estivi. In Italia non c'è mai stata una grande vendita di vini rosati, specialmente fermi, in quanto il prodotto era un po' come un completamento, cosa che sta cambiando la tendenza sui vini con le bollicine. Molto bene gli Charmat, e a ruota, per una questione anche di prezzo, quindi minor vendita, ci sono i cosiddetti metodo classico e altri come gli champagne. Ecco Colomba, mi dica una cosa, prevedete delle novità per quest'estate, non so, dei bianchi che tornano a essere grandi protagonisti, oppure le bolle continuano a essere così molto gettonate dai consumatori? Ma le bolle continueranno ad essere gettonate dai consumatori, anche se in questo momento diciamo che dopo anni di predominio dei vini rossi c'è una riscoperta dei vini bianchi, di conseguenza anche dei rosé, vini consumati a temperature chiaramente più confacenti alla stagione estiva, e di conseguenza questo può dettare anche una nuova idea di consumo. Ho capito. Senta, rimanga con noi, visto che abbiamo parlato ora di grande distribuzione, andiamo anche in un'enoteca molto famosa di Roma, andiamo dall'enoteca Trimani. Sentiamo Paolo Trimani se concorda con l'analisi che ha fatto Daniele Colombo. Buongiorno Paolo. Buongiorno Davide e a tutti gli ascoltatori. Ho ascoltato solo l'ultima parte dell'intervento. Direi che sostanzialmente sì, il mercato dei vini rosati è brillante ma di limitate dimensioni, l'interesse è molto più ristretto agli addetti ai lavori probabilmente. E quindi, per l'estate penso che il consumo dei bianchi, di un certo tipo di bianchi, sarà in grande aumento, e penso a tutto il patrimonio dei nostri vitigni tradizionali che possono dare se vinificati correttamente, delle versioni estremamente interessanti, Lugana, Soave, Verdicchio, qualche buon Trebbiano, il Vermentino sia Sardi sia del continente, della costa Ligure Toscana. Ecco, io ho visto negli ultimi anni una grande crescita del Vermentino, proprio anche l'anno scorso ho visto molto, molto seguito, molto acquistato e molto richiesto anche ai ristoranti, quindi prevedi che ci sia una continuità sul Vermentino, in particolar modo ho visto quello sardo molto così richiesto. Ma sì, il Vermentino sardo, anche perché è un vino molto versatile, un'uva che permette di esprimersi con vini molto freschi o anche molto intensi e di media capacità di affinamento nel tempo, insomma, non, forse 10 anni no, ma 4-5 senza problemi. E poi ha il traino della Sardegna, che è uno dei marchi per le vacanze di maggior richiamo. Sentiamo Daniele Colombo cosa ne pensa del Vermentino. Ma il Vermentino, vitigno italiano, dove ha avuto un grande sviluppo in Sardegna, è sicuramente il vitigno principe un po' per un consumo estivo, e che diventa anche fuori dalla stagione estiva quello che meglio performa in questo momento. Sono d'accordo sulla visione. Non dimenticherei anche un po' delle novità di mercato che in questo momento vedono anche qualche esperimento, se così vogliamo dire, perché ancora di tale si tratta, di una vendita di vini rossi da consumare d'estate. Beh, io direi che è più di un esperimento, perché sono già anni che sicuramente vengono serviti dei vini molto freddi. Io vorrei ricordare che non più tardi di 10-12 anni fa Yerman uscì con il primo Pinot Nero da servire freddo e molti l'hanno seguito. Credo che ormai sia una tendenza, diciamo, questo tabù vino rosso pesce ormai è completamente saltato. Credo che oggi la gente abbia capito che bisogna sperimentare sperimentare e non seguire così delle regole aritmetico-geometriche, ma sperimentare anche con se stessi. Ma appunto che parlavamo di vino anche da pesce, ma io direi un vino rosato che si differenzia un po' dagli altri, diciamo la verità. È un vino che è anni che è sul mercato e continua il suo trend. E poi devo dire che ha anche un fuoriclasse che lo produce, che è Francesco Valentini. Buongiorno Valentini. Ciao Davide, buongiorno. E stiamo parlando del Cerasuolo, Cerasuolo d'Abruzzo. Bene, Francesco, hai visto una crescita negli ultimi anni di interesse verso il Cerasuolo? Sì, negli ultimi 2-3 anni c'è stata una notevole crescita, senz'altro. E, non solo nel periodo estivo, perché io notavo prima che i rosati, i cerasuoli in particolare, si vendevano più durante il periodo estivo perché probabilmente si abbinavano a piatti di pesce tipo brodetto, arrosti. Ho visto che c'è stato un aumento anche nel consumo invernale, diciamo, quindi comincia a far parte di un certo consumo abituale, ecco, del vino. Non ci scordiamo che i rosati sono sempre stati non considerati dei vini, o meglio ancora dei non vini. Forse questa è anche un po' colpa di produttori che senza scrupoli hanno fatto, diciamo, vini rosati facendo il classico taglio, mentre se il rosato è vinificato in maniera corretta, tradizionale, è un vino a tutti gli effetti. Ma anche adesso stiamo notando, anche le guide cominciano piano piano a dargli una certa rilevanza, cosa che prima invece non accadeva. Ecco Francesco, ma una curiosità, io definisco il Cerasuolo un rosato diverso, perché sicuramente si avvicina forse molto più ai rossi che ai bianchi, quindi ha una sua struttura e sicuramente anche l'abbinamento può essere molto più variabile. Ti chiedo, ma la temperatura di servizio si avvicina più ai rossi o ai bianchi? Una via di mezzo. Io non voglio freddare troppo il rosato, il cerasuolo, come un bianco, perché altrimenti si attenuano troppo le caratteristiche organolettiche, diciamo. Per i bianchi sì, ma per i rosati una via di mezzo, diciamo. Bene, torniamo a Paolo Trimani. Paolo, la piazza di Roma è sempre molto indicativa per i vini. Ecco, volevo chiedere, come accoglie il roseo rosato Roma, specialmente le bolle? Sulle bolle c'è un discreto interesse, forse non c'è l'onda, non c'è stata nemmeno l'onda che ha coinvolto alcune regioni, penso al bacino del Garda o a certe zone emiliane dove hanno impazzato e sono esplose come consumi, però c'è una notevole fetta di consumatori che le preferisce in rosé. Ho capito. Bene, dicevo, abbiamo tralasciato questa volta volutamente molti lambruschi che sono stati così, hanno prodotti con il metodo Champenoise, che sicuramente possono rientrare nel discorso dei rosé, ma lì faremo un discorso molto a parte. Noto la mia passione per il lambrusco, quindi penso che prima o poi faremo una trasmissione tutto lambrusco proprio prima dell'estate, perché secondo me è un grande vino anche questo estivo e molto ma molto sottovalutato. Lei, Colombo, cosa ne pensa? Ma io da questo punto di vista sono molto d'accordo, anche perché credo che questa regione e questo vitigno, questo vino, il Lambrusco, debba essere anche un po', diciamo così, portato a braccetto dalle nuove tendenze di consumo. Quindi sono d'accordo con quanto lei sostiene, e soprattutto ritornando un po' e ricollegandomi anche a quello che stava dicendo signor Valentini sul discorso del Cerasuolo, sono assolutamente d'accordo che i produttori oggi di Cerasuolo abbiano individuato quello che il consumatore vuole, un vino da consumare tutto l'anno, fresco, fatto come un vino molto piacevole da consumare. Bene, grazie a Daniele Colombo, Francesco Valentini e Paolo Trimani. Rimanete con noi, torneremo fra poco. Linea alla regia. il gastronauta. Anche il vino ha le sue quote rosa, stiamo parlando appunto di vini rosé e rosati. Bene, stiamo facendo un po' un giro dell'Italia per capire se il successo di questo vino, che lo ripeto, secondo me è un vino di moda, continuerà oppure no. Io ho la sensazione che ci sia un rallentamento, e una mia seconda sensazione è che molti produttori si sono così gettati a produrre questo vino, molti anche impreparati, e diciamo che la media di quello che si trova in vendita non è che sia eccellente. Però volevo anche ricordare che in Francia, a Cannes, si è giocato il mondiale dei rosé, giocato nel senso, sicuramente si è tenuto, il gergo del calcio torna sempre quando si parla di mondiali. Ebbene, la Francia ha avuto 137 medaglie, 18 medaglie ai vini italiani, con un grande successo del Bardolino Chiaretto. Va bene, ma torniamo all'Italia, e abbiamo con noi Giovanni Fiorin del Caffè Trussardi, un grande esperto di vino, soprattutto un grande esperto di vini naturali. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Giovanni, ma ci sono anche vini naturali, rosé o rosati? Sì, beh, sicuramente il sud della Francia, tu hai ricordato Cannes, comunque quella è una zona in cui i vini naturali hanno attecchito molto bene, o comunque fanno ormai parte della tradizione, e il rosato altrettanto. Per quanto riguarda quello che è successo da noi, o quello che da noi in termini di rosé ha dato un buon risultato, sicuramente si tratta di champagne, e in questo caso anche qui abbiamo cercato di seguire un po' la nostra filosofia di proporre dei vini che abbiano che vengono prodotti con metodi poco invasivi, diciamo così, per non dare classificazioni, e in questo caso, in questo senso, abbiamo optato per dei due metodi di produzione, abbiamo optato per i Seigneur, quindi sono i metodi un po' più all'antica di produrre champagne, e devo dire che il risultato è stato molto, molto soddisfacente. Ecco Giovanni, ma tu vedi ancora grande successo dei rosé? Ecco, nel tuo locale chi chiede rosé lo chiede spontaneamente, o siete voi che offrite magari dei rosé? Noi li proponiamo con una certa enfasi, proprio perché quel tipo di bollicina, quel tipo di rosé ci piace. È da dire che, avendolo anche molto a vista, quando viene visto specialmente all'orario dell'aperitivo, attira molto, probabilmente ha un certo appeal il colore, ha un certo appeal il tipo di presentazione che ha. Devo altresì dire che mi trovo un po' d'accordo con te sul fatto che la maggior parte dell'onda dei rosati o dei rosé si sta un po' spegnendo. Ripeto, per quanto ci riguarda, l'unica fascia che continua a avere un grande riscontro con il nostro pubblico rimangono i champagne, e comunque da noi, specialmente il nostro pubblico fidelizzato, lo chiede. Bene, ora abbiamo un vecchio amico di Radio 24, è tempo che non lo sentivamo. Buongiorno Fabio Scarpitti. Ciao Davide, come stai? Bene, Fabio oggi è un distributore, talent scout di molte etichette, nonché vecchio campione italiano dei sommelier. Fabio, tu sei sempre un dissacratore, quindi io ti provoco subito. Ma c'è futuro per i vini rosé e rosati? Ma Davide, io ti dico che ormai mi sono già rotto di questi rosé, nel senso che onestamente, se mi puoi passare il termine, però un po' stanno stufando. È una moda che chi beve rosé lo beve rosé da una vita, nel senso, lo faceva sin da piccolo. Invece adesso proprio si è passati a questa moda, un po' dovuto al colore, un po' dovuto al fatto, appunto, non lo so, per diversi motivi che non riesco ancora a capire, perché poi tra l'altro di rosé buoni ce n'è veramente pochissimi. Concordo. In più poi vai sullo champagne, cioè non è proprio un vino da tutti i giorni, quindi veramente è un po' una menata questa qua dei rosé. Io personalmente non è che la sto rifiutando, tant'è vero che ho appena preso un piccolo produttore che lavora in biodinamica e biologica nella zona di Camporeale a Palermo, che fa un rosé ottenuto da voi di Perricone che è favoloso. Però cioè, voglio dire, stiamo cavalcando un'onda, una moda che tra l'altro non è neanche nostra, nel senso che, voglio dire, forse, ecco, nella zona di Camporeale il Perricone vinificato rosa se lo bevevano i contadini, in più fatto in questo modo, cioè in biodinamica, senza nessuno. Ma lo champagne rosé, ma chi è che se lo beve? Cioè, se lo beve chi può, ma voglio dire, non fa parte proprio della nostra tradizione. Quindi io sto spingendo di brutto su un prosecco fermo leggerissimo a 11 gradi da bere a canna per l'estate, basta con questi rosé che bravo. È un po' come il mondo della birra anche, che voglio dire, le birre stanno uscendo alla grande, però siamo un paese che produce vino, cerchiamo di mantenerci anche, cioè ricordiamoci di queste nostre tradizioni comunque. Rimani con noi Fabio, anche Giovanni, perché ora abbiamo un terzo grande esperto. Devo dire che questi tre personaggi sono tre personaggi di cui mi fido moltissimo dei loro giudizi. Abbiamo Giuseppe Palmieri, suggeritore di vino dell'Osteria della Francescana di Modena. E Giuseppe, hai sentito questi due pareri di Giovanni e di Fabio, tu cosa ne pensi? Ciao Davide, ciao a tutti. Io ho seguito con attenzione Scarpitti. Ho perso purtroppo appieno l'intervento di prima, ma Scarpitti è da promuovere a sindaco d'Italia immediatamente. Sindaco dei Rosé. Sì, sindaco della nostra Italia, del nostro circuito. Oddio, insomma, la crudezza con cui è intervenuto, vabbè, lui se la può permettere magari un po' meno, però insomma condivisibile. Devo dire che insomma il fenomeno di moda per quanto riguarda l'alta ristorazione, che è quella che noi frequentiamo, i rosé hanno toccato, hanno sfiorato l'alta ristorazione, perché le mode insomma sono sempre poi un soggetto che si rivolge a un pubblico magari insomma diverso, insomma a una fascia un po' più ampia, però a prescindere alcune realtà come la nostra, che è quella del Lambrusco, se vogliamo definirli rosé, e non so se sia... No, ho già fatto una parentesi prima. I Lambruschi le lascio da parte, perché come tutti sanno è una mia grande passione, dedicheremo un qualcosa di particolare. Ma volevo chiedere, Giuseppe Palmieri, prima Giovanni Fiorin ha citato alcuni biodinamici francesi appunto che producono rosati. Fabio Scarpitti ha detto ce ne sono pochi e ne ha individuato uno in provincia di Palermo. Ecco, tu sui rosati, sui vini, lasciando per un momento le bolle, che vedo che tutti sono d'accordo su certi champagne, e come diceva Scarpitti non è che lo possiamo bere tutti i giorni gli champagne rosé, ma c'è qualche vino rosato interessante anche in Italia? Ma sono considerazioni, andiamo a sottolineare cose per certi versi quasi ovvie, insomma basta pensare alla grandezza del Cerasuolo di Valentini, piuttosto che, tornando in Sicilia, all'azienda Calabretta che fa un Etna rosato sicuramente anticiclico, perché non ha nulla a che vedere col prodotto moderno, sono vini che hanno una personalità che viene dalla storia, viene dal passato, ma insomma tradizionalmente nella cultura naturale ci sono più di qualche prodotto in Italia sul rosé, assolutamente straordinario. Bene, rimanete con noi, torno a Giovanni Fiorin. Abbiamo parlato molto di champagne. Volevo chiedere a Fiorin, e poi la stessa domanda che rivolgerò a Palmieri e a Scarpitti. Parliamo della spumantistica italiana, ma a che punto è la spumantistica italiana per quanto riguarda i rosé, Fiorin? Ma dal punto di vista della... sicuramente la Franciacorta ha degli esempi di buoni risultati in questi termini. Devo dire che in questo particolare aspetto, mi trovo d'accordo con Fabio Scarpitti sul fatto che comunque anche qui è un tipo di prodotto che non appartiene alla nostra tradizione e che comunque ci sono davvero poche realtà che possono distinguersi da una massa che viene prodotta, sicuramente. Scarpitti, tu cosa ne pensi della spumantistica italiana rosé? Sai che non so cosa dirti, cacchio, Davide, nel senso scherzo, però voglio dirti, cosa devo pensare? Niente, che si spumantizza, cioè ormai escono fuori tanti di quei rosé che non si capisce da dove escano, onestamente. Io penso sempre che per fare un grande rosé spumante a volte ci sia bisogno di un grande pino nero, per esempio, no? Da dove esce tutto sto pino nero che gira? Cioè, ormai si fa il rosé anche con non lo so, appunto, con l'uva corvina. Con tutto, cioè, con tutto, ormai si fa con tutto. Cioè, non riesco neanche io a capire come... Cioè, per questo che dico, proprio, è una moda, no? È una moda che va presa... Cioè, facciamo quello che sappiamo fare. Se li facciamo bene in Salento, facciamo in Salento. Se in Franciacorta c'è qualcuno che ha un grande pino nero da vinificare bene, o anche, non lo so, un pino meunier, ma non so se ce ne siano in Franciacorta, da vinificare bene, che lo si faccia, ma non possiamo avere tutti che facciano il rosé in questo modo. Cioè, anche perché veramente la maggior parte non sono buoni, capito? Bene, sentiamo Palmieri. Voglio chiedere non della spumantistica, perché diciamo che sia Fiorin che Scarpiti hanno già risposto adeguatamente. Volevo chiedere Palmieri, quale potrebbe essere la sorpresa dell'estate? C'è un grande ritorno dei bianchi? C'è un grandissimo ritorno dei bianchi. Ci sarà sicuramente grande attenzione per i bianchi senza le bolle, probabilmente perché il comparto champagne Franciacorta si è consolidato in maniera straordinaria, e spero che noi italiani finalmente riconosceremo ai francesi la leadership, ma perché solo così, da secondi in classifica, arriverà il momento in cui magari fra tanti anni metteremo la freccia e li raggiungeremo al primo posto. Ma ci potrebbe essere una grande attenzione nei confronti dei vini del nord Europa, che sono stati evidenziati un paio di anni fa, quando si parlava della grande Germania, della grande Austria, ma perché sono vini particolarmente immediati, particolarmente, tra virgolette, semplici, ma nella loro semplicità molto complicati perché molto eleganti, ma che hanno un vantaggio straordinario, cioè una gradazione media che va dagli 8 agli 11 gradi, quindi questo sicuramente potrebbe essere un elemento a loro favore. La qualità è intrinseca, le quantità sono davvero delle quantità importanti, però all'interno di queste quantità c'è una nicchia di altissima qualità. Bene, grazie a Fiorine, grazie a Palmieri. Scarpiti rimane ancora con noi qualche secondo, passo la linea alla regia, torneremo fra poco. Il gastronauta. Eccoci di nuovo tutti colorati di rosa per parlare di vino rosé e rosato. Bene, volevo ricordare che ci sarà la rassegna rosa a Monica del Garda dal 5 al 6 giugno, dove si potranno assaggiare ben 200 vini rosati. Torniamo al nostro amico Scarpiti. Io voglio chiedergli questo. Fabio, io vedo una grande crescita tra i bianchi del Vermentino. Non so cosa ne pensi. Io del Vermentino ne penso molto bene, soprattutto del Vermentino sardo, anche se poi non dobbiamo dimenticare che a Volgheri, in Toscana, con le zone della Toscana, fanno degli ottimi Vermentini. Però io da sempre ne penso bene del Vermentino, anche perché se ti vai a prendere un Vermentino di Gallura su terreno granitico, oppure anche su sabbia, perché il Vermentino autoctono sardo poteva nasce anche sulla sabbia, perché è una pianta che si è abituata a vivere nei secoli così, si beve da Dio, secondo me. Per me è un grandissimo vitigno, onestamente, e che tra l'altro può dare degli invecchiamenti anche non inaspettati, perché se conservato bene, tappato con i tappi giù, queste cose qua, si possono bere dei Vermentini strepitosi di diversi anni. Un po' rasenta alcuni vini minerali, quando passano diverso tempo, quando passano diversi anni, rasenta dei vini minerali stile Riesling, stile anche dei Verdicchi, cose così. Ti posso dire che anch'io la penso in questa stessa maniera, perché ho assaggiato dei Vermentini appunto di Gallura straordinari, con una tenuta veramente incredibile, e credo che sicuramente possa essere una già l'anno scorso ha cominciato a sorprendere, però quest'anno penso che possa essere veramente la grande sorpresa dell'estate. Bene, grazie a Fabio Scarpiti, grazie come sempre della tua onestà nel parlare e nel raccontare il vino, grazie. Ebbene, ora andiamo a parlare anche con la grande distribuzione, e andiamo a parlare con Marco Viganò, che è direzione acquisti food di Metro Italia. Buongiorno Viganò. Buongiorno. Volevo chiederle, Viganò, cosa ne pensa, se ritiene che il boom degli anni passati, di questo grande interesse sui rosé e sui rosati, sia, diciamo, al culmine, sia per terminare. E le voglio chiedere in seconda battuta, cosa prevede per l'estate? Quali saranno, secondo lei, i vini che più di ogni altro, diciamo, saranno nella tavola degli italiani durante le vacanze? Allora, per quanto riguarda noi, il rosé è sicuramente un fenomeno in crescita. Bene. Ma in questo momento un po' sottodimensionato, sinceramente, rispetto alle sue potenzialità. Infatti da noi le quote del rosato sono molto forti, soprattutto in zone specifiche d'Italia, come il Garda, l'Abruzzo e il Salento, che sono solitamente le zone storiche. Vediamo però un forte dinamismo sullo spumante rosé, che sia da metodo classico che da metodo Charmat, direi. Ecco, vogliamo precisare anche che la Metro serve direttamente alla ristorazione, quindi diciamo che questi dati arrivano da, così, dalla richiesta, dalla domanda della ristorazione. Esattamente, il nostro cliente specifico è proprio quello professionale, quindi i nostri ristoratori, i catering, gli hotel, i bar. Ecco, appunto questo, e al di là del rosé, ci sono delle novità per l'estate? Perché la gente sicuramente già ha cominciato ad acquistare, specialmente i locali di mare, i locali di vacanza. Vede qualche astro nascente, un bianco particolare, dei bianchi particolari, una ripresa dei bianchi, oppure anche il rosso servito fresco continua ad essere protagonista? Allora, guardi, in questo momento noi abbiamo proprio appena chiuso un catalogo che è il catalogo vini di estate, e dai primi numeri sorge proprio un fenomeno micro per il momento, ma interessantissimo, su alcuni vitigni autoctoni. Uno è marchigiano e sarebbe la Passerina, e l'altro è il pecorino d'Abruzzo. Quindi fantastico, due vitigni che sono poco conosciuti dal grande pubblico, però poco conosciuti, che noi stiamo proponendo su tutto il territorio nazionale, stiamo vedendo che sta veramente prendendo piede. Ecco, rimanga con noi, ora rivolgo appunto a questa domanda. Abbiamo parlato di Abruzzo, abbiamo parlato di Cerasuolo, abbiamo parlato di rosé e di rosati. Bene, chi meglio di Massimo Di Cinzio, che è un giornalista che è stato il primo anni fa a fare una guida ai vini rosé e rosati, cosa ne pensa? Buongiorno Massimo. Buongiorno a tutti. Allora, tu che hai seguito un po' così il percorso dei vini rosé e rosati negli anni, quando ancora magari se ne parlava così poco, cosa prevedi? Prevedi che si fermi questa crescita, e cosa ne pensi di questi vitigni autoctoni, tra cui uno anche abruzzese di cui ha parlato Marco Viganò? Sì, devo dire, parto da questa ultima considerazione, che è una considerazione ovviamente che mi fa piacere, sentire parlare di Passerina e di Pecorino come vitigni appunto che sono a cavallo tra Abruzzo e Marche, e poi vedrai anche nei prossimi anni ce ne saranno altri, perché si sta studiando anche sia nelle Marche che in Abruzzo, si stanno studiando dei vitigni autoctoni, la riscoperta di questi vitigni come la Cococciola, come il Montonico, ne sentiremo parlare nei prossimi anni. Io credo che funzioni anche il nome, Passerino e Pecorino sono due nomi anche facili, anche semplici, anche gioiosi, ecco, se vogliamo, oltre che sono vini che negli anni si sono anche da vitigni rustici, con le tecnologie, con le tecniche, con le conoscenze, ovviamente sono stati da quei vitigni sono stati prodotti dei vini molto interessanti, molto buoni, meno difficili se vogliamo per il pubblico, ma sicuramente con le loro caratteristiche rispettate. Per quanto riguarda i rosati, io sono contento di sentire questa continua tendenza dei vini rosati. Tu lo sai, insomma, sono un appassionato, continuo ad occuparmene, sebbene ho interrotto in questo momento la produzione della guida dopo 4 edizioni, però devo dire che anch'io registro questa crescita. Devo dire che un po' la difficoltà che ho avuto negli anni è stata quella di continuare a recensire rosati, perché sono cresciuti in maniera smisurata. Io ho cominciato all'inizio degli anni 2000, quando si recensivano e assaggiavo più o meno 350 rosati italiani. Io credo che in questo momento ce ne siano circa 1000 etichette almeno, ecco, di quelle da recensire. Io a proposito di questo voglio dire innanzitutto che mi sembra che gli ultimi intervenuti siano in controtendenza. Abbiamo sentito tutta una serie di altri esperti, i quali danno invece come stazionaria, se non in diminuzione, l'interesse verso il rosé, escluso Peretti, che ha parlato appunto del Chiaretto, che c'è un grande boom. E volevo dire anche sul fatto, e non so se tu concordi Massimo, su queste 1000 etichette, io ho l'impressione che molti produttori abbiano deciso di produrre rosé semplicemente perché il mercato stava tirando, e credo che la media qualitativa sia un po' scesa negli ultimi 2 anni. Io sono d'accordo, sono d'accordo del fatto che ci siano stati produttori che non avevano nessuna intenzione di produrre rosato fino a 5 o 6 anni fa e poi invece con il mercato che tira o che tirava sicuramente hanno pensato di farlo. Mediamente è vero che quando si cresce in maniera così, anche se vogliamo enorme come è successo negli ultimi anni, la tendenza è anche quella di abbassare un livello, perché comunque non tutti hanno l'esperienza come nelle grandi regioni o come i grandi produttori di fare la loro rosato. È comunque un vino molto difficile, lo dicono tutti, anche tutti i tecnici, ma anche per noi osservatori è difficile davvero fare rosato, riuscire a raccogliere l'uva alla giusta maturazione senza che sia troppo maturo ma senza che sia troppo acido, e poi la vinificazione che ha il giusto tenore di colore, insomma ci sono tante attenzioni, certo, che sul rosato ne bisogna prestare proprio nella fase sia di coltivazione sia di produzione, quindi di raccolta e di produzione, e quindi inevitabilmente chi ha fatto rosato solo per moda evidentemente non è riuscito. Bene. La fortuna sono i prezzi, ovviamente, che sono dei prezzi piuttosto abbordabili in generale. In questo momento in particolar modo sicuramente sono graditi. Bene, grazie a Di Cinzio e grazie a Viganò, abbiamo chiuso questo viaggio nel Rosé. Io vi do appuntamento domani per la trasmissione Il Riposo del Guerriero alle 12:15 ogni giorno, con la pillola alle 11:05 e alle 23:05, e vi auguro veramente un'estate in rosa.